24 mattino. Io penso che per portare il monopattino bisogna avere una patente, conoscere il codice stradale ed avere un'assicurazione, perché comunque gli incidenti possono essere anche molto gravi. I fatti di Piacenza purtroppo confermano la deriva sudamericana che sta prendendo questo paese. Scusate, ma tutta la droga che sequestrano a questo punto siamo sicuri che viene usata per scopi nobili? Caro ascoltatore, rispondo prima all'ultimo, non la metterei giù così dura, ci riferiamo al caso di Piacenza, al caso della caserma dei carabinieri, tema sul quale apriremo la nostra rassegna stampa, perché sui giornali ci sono delle cose, degli spunti molto interessanti. Sì, io sono abbastanza sicuro che non solo la stragrande maggioranza, ma la quasi totalità dei carabinieri e degli uomini delle forze dell'ordine svolgano il compito che devono svolgere. Di qui a dire che il caso di Piacenza sono solamente mele marce e ci arriveremo tra un attimo, beh, quello forse è un po' troppo. E anche là, dico, non mi spingerei a parlare di deriva sudamericana dell'Italia, intendendo con deriva sudamericana il Sud America di qualche decennio fa soprattutto. Sui monopattini è un'ipotesi. Mi sembra un po' troppo la patente apposita per monopattino, forse il casco può essere un'idea. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, giovedì 23 luglio, sono le 7:21 minuti e 45 secondi e come sempre, attendendo anche altre vostre voci, se volete al 349-238-6666 per gli WhatsApp audio, gli SMS, i messaggi su WhatsApp e aspettandovi anche sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di 24 mattino per la diretta video. Inizio come al solito da un'occhiata alle prime pagine, con i quotidiani che si dividono in due grandi gruppi. Chi dedica l'apertura esattamente all'inchiesta sulla caserma di Piacenza e chi dedica l'apertura invece alle questioni economiche e in particolare di politica economica e al Recovery Fund. Nel primo gruppo rientrano La Stampa, che titola così: Carabinieri, torture e droga, la caserma come Gomorra. La Repubblica, che parla della caserma della vergogna. Il Manifesto, che titola I gomorristi, con la foto di questi quattro carabinieri, e la trovate un po' dappertutto. I loro occhi in realtà coperti da una fascetta nera per evidentemente evitare che siano riconosciuti, che sventolano delle banconote da 50 euro in una foto, tutti e quattro. Nel secondo gruppo rientrano il Corriere della Sera, che ci parla del bilancio, caccia i voti di Forza Italia, quindi è il fronte un po' più politico. Ovviamente tutti titolano anche sulla vicenda della caserma. Soldi europei, duello sulla task force, è il titolo del quotidiano nazionale. Libero è un po' sulla stessa linea, perché dice che nel governo è già lite per spartire la torta europea. Più concentrato sulla sostanza dei provvedimenti in arrivo è il Messaggero, che parla di sgravi per chi torna al lavoro. Secondo La Verità, il conto di Bruxelles, così lo definisce, quindi le condizioni che Bruxelles impone, eredità, catasto e pensioni. La soglia per la tassa di successione sarà abbassata drasticamente, nel PD c'è già l'intesa, colpite anche le donazioni, mentre si torna a parlare di revisione degli estimi delle case. E Salvini Resto Solo è il titolo più politico del Fatto Quotidiano. Il PD MES intanto guasta la festa a Conte. E Il Giornale apre su quella storia della quale vi accennavo poco fa. I dati forniti dalle aziende del settore del legno e dell'arredo sul tema dei banchi monoposto. Salta il banco, caos scuola su tavoli e sedie, rivolta delle aziende ci chiedono di fare in un mese il lavoro di 5 anni. Il Sole 24 Ore ci comunica, ci parla di piccole imprese, un terzo è a rischio, dice. Mentre Avvenire si sofferma sul tema più largo della situazione del paese, pandemia sociale, viaggio nell'Italia stremata dal coronavirus tra nuovi poveri e vittime di usura. Riprendendo un po' tanti dei temi che lo stesso Avvenire ha toccato nelle settimane scorse. Iniziamo dunque da Piacenza e da quello che è successo in quella caserma. La storia ormai la conoscete perché l'avete sentita anche in GR24. Per riassumerla per sommi capi, ieri c'è stata sono scattati gli arresti per sei carabinieri in un'inchiesta condotta dalla Procura di Piacenza, dalla quale è emerso cosa, secondo le accuse dei magistrati? Che quella caserma era di fatto diventata la centrale di un gruppo di spaccio alla guida del quale c'erano questi sei carabinieri arrestati, in particolare un appuntato, l'appuntato Giuseppe Montella, del quale i giornali pubblicano una foto nella sua villa con uno spritz e con alle spalle la piscina, e del quale i giornali raccontano la passione per le auto cambiate molto rapidamente, auto anche di lusso, e che cosa faceva? Di fatto aveva degli intermediari ai quali passava la droga sequestrata, e questa droga sequestrata poi arrivava ai pusher e veniva rivenduta. Il tutto condito da pestaggi molto violenti all'interno della stessa caserma. Per fare cosa? Per ottenere informazioni su dove i pusher avessero nascosto la droga, e per prendere questa droga e poi appunto rivenderla. Il giornale più completo forse su questo fronte nel racconto, trovate racconti un po' dappertutto, però forse quello più completo mi pare il quotidiano La Repubblica, che ci apre, ci fa tre pagine, un pezzo di cronaca e poi un racconto dell'inviato Giuseppe Baldessarro, il quale pubblica tutta una serie di intercettazioni contenute nell'ordinanza che, a dir la verità, sapete quanto da queste parti si pratichi il garantismo, però lasciano francamente poco spazio ai dubbi, perché in questo caso si sente Giuseppe Montella che dice: a me interessa l'erba, l'importante è che ho l'erba, mi interessa averla sempre. Direi che di fumo, gli risponde uno dei suoi intermediari, ne abbiamo un bel po'. No, fumo, che te ne frega, a noi l'importante è l'erba, io dell'erba non posso fare a meno. In settimana così faccio il viaggio, mi faccio un unico, perché così se riescono vengono a prendersi sia l'erba che la coca. Io prendo botte, gli risponde l'altro, da 45.000 euro di droga alla volta. E su 40.000 quanto riesci a guadagnare? Quanto riesci a portare a casa di tuo puliti? 10.000 euro. E questi sono i dialoghi appunto tra il carabiniere, tra l'appuntato dei carabinieri e uno dei suoi intermediari. Durante il lockdown gli intermediari hanno difficoltà ad approvvigionarsi di droga e i carabinieri si mettono d'accordo con loro per accompagnarli per evitare i controlli, un servizio che si fanno pagare. In auto ci sono Montella, Giardino e un altro militare, il quale Giardino dice: così ti tiri su i 500 euro, te li tieni solo per il viaggio. E Montella: quindi questi qua che dobbiamo fare? Li dobbiamo mettere in garage? Sì, un po' te li lascio a te, magari se me li tieni te. Così funzionava. Il tema però è ancora più largo ed è sì ovviamente sulle responsabilità di queste persone che sono state arrestate, ma anche sulla catena di comando. Lo nota Fabio Tonacci, sempre sul quotidiano La Repubblica, a pagina 4. Tutto nasce, un pezzo di tutto questo è composto dalla necessità di fare più arresti, racconta, dice Fabio Tonacci. La risposta dell'arma non può e non deve essere quella già troppe volte sentita in passato e che suona più o meno così: sono solo delle mele marce, l'arma è un corpo sano. È una risposta insufficiente da qualunque lato la si guardi, anche perché, stando a quanto si legge nelle 326 pagine dell'ordinanza del GIP, che alla Levante le cose non andassero come dovevano andare non era affatto un segreto. ne era a conoscenza il superiore diretto, il maggiore Stefano Bezzecchieri, comandante della compagnia Piacenza. È l'ufficiale che scavalca il maresciallo alla guida della Levante e impone all'appuntato Montella di fare più arresti, dicendogli tra le altre cose: vediamoci in borghese, vediamoci quanto prima a Quattr'Occhi, in borghese, al di fuori del servizio, lo avverte al cellulare. L'ordine è chiaro, va eseguito ad ogni costo e con ogni mezzo. E ancora, scrive Tonacci, eppure niente percepiscono e niente eccepiscono i tre comandanti provinciali che si sono succeduti a Piacenza dal 2017 ad oggi. Il colonnello Corrado Scattaretico nel settembre del 2018 viene trasferito a Roma in un ruolo di stretta fiducia dei vertici. Vice capo ufficio del vice comandante generale dell'arma. Il suo posto lo prende il colonnello Michele Piras, che arriva dal reparto operativo di Catania e lo mantiene fino al settembre dello scorso anno, quando è nominato dalla piacentina Paola De Micheli a capo della segreteria generale della neo ministra delle infrastrutture e dei trasporti. Viene sostituito dall'attuale comandante provinciale, che nelle intercettazioni lo si sente prima chiedere spiegazioni a proposito di uno degli arresti sotto inchiesta. Poi fare i complimenti al maresciallo in comando alla Levante per le operazioni contro lo spaccio. E questo è il quadro. Se consentite di aggiungere un altro elemento a tutto questo, c'è l'inchiesta della quale ieri aveva parlato diffusamente la stampa e sulla quale la stampa oggi torna, invece, sulle violenze nel carcere di Torino. Le intercettazioni shock dal carcere di Torino, e siamo a pagina 5 della stampa con Giuseppe Legato. Oggi ci siamo divertiti, li abbiamo menati. Questo è il racconto. Uno degli agenti indagati ha il telefono intercettato ed è il 2019. Parla con la fidanzata e le dice: oggi ci siamo divertiti, sembrava un carcere di Israele negli anni 50. Lei domanda: li avete menati di nuovo? Silenzio, pausa, sì. Secondo il PM Francesco Pelosi, titolare dell'inchiesta che scuote uno dei più importanti penitenziari italiani, è questo uno dei tanti casi in cui nemmeno si conoscono i nomi delle vittime, ma dei presunti picchiatori di professione sì. E la ventina di episodi emersi sono solo la punta di un iceberg di quello che avveniva nel carcere di Torino. E sotto c'è anche un racconto, lo porta Lodovico Poleto, è la testimonianza di un uomo in carcere per omicidio di origine egiziana, si chiama Mohamed quando i fatti avvengono è stato operato da poco per un'ulcera all'addome, ha dei dolori, si sente male, gli altri detenuti lo soccorrono, arriva un agente, gli lancia una pastiglia di Buscopan per terra e gli dice: muori pezzo di merda, e gliela butta là. Mohamed reagisce con le parole, perché è chiaramente sdraiato per terra con quest'ulcera, con questa operazione all'ulcera. Dopo un po' arriva il capo posto, gli dice che il brigadiere lo vuole vedere, il brigadiere lo porta dentro questa stanza, gli dà un calcio alla gamba e lo fa cadere e inizia a prenderlo a calci esattamente sulla ferita dell'operazione. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare la società Autostrade e tutti i responsabili per le splendide code che stiamo facendo ogni volta che tentiamo di raggiungere il confine Ventimiglia. Questa mattina partito alle 4.10 da Bergamo, piantato alle 6.05 al cartello di Stura in autostrada. Sono le 7.05 e siamo ancora piantati. Grazie di cuore per tutte le manutenzioni che avete fatto negli anni, che ci permettono di avere un'autostrada scorrevole e efficace. Grazie, buona giornata a tutti. Ci aggiorni, amico bergamasco, le siamo vicini per quanto possibile. Chissà quanti ascoltatori sono con lei proprio là accanto, sono là che ascoltano Radio 24, fermi in coda, datevi la mano. Anzi no, scusate, toccatevi il gomito. Oh, stanno arrivando molti messaggi sul tema dei carabinieri, dei pestaggi, di quello che succede. Nessuno cade dalle nuvole sul tema dei pestaggi in carcere. Un ascoltatore dice: come fate a cadere dalle nuvole? Non è un cadere dalle nuvole, che finché non c'è un'inchiesta della magistratura che appuri che cosa è successo, come è un po' generico dire nelle carceri succede. E qualcuno chiede di non utilizzare il termine Gomorra per la vicenda invece della caserma dei carabinieri. In realtà nasce proprio da un'intercettazione, l'intercettazione di un pusher che dice, parlando di un altro che viene picchiato all'interno della caserma, dice quanti schiaffi ha preso sembrava Gomorra, ed è da qua che nasce il paragone. Siamo alla parte politica, che, devo dire la verità, oggi curiosamente si esaurisce con una certa rapidità. Perché? Perché un po' tutti i giornali danno conto delle schermaglie interne alla maggioranza e al governo su come gestire i fondi europei. Una volta ottenuti, come gestire i fondi europei. Ieri è stato il giorno, e abbiamo sentito prima le voci del Presidente del Consiglio Conte in aula al Senato, si sono registrate tutte le reazioni politiche, da quelle prevedibili, come tutte prevedibili a dire il vero, da un Matteo Salvini particolarmente duro, ai partiti di maggioranza invece che danno pieno appoggio al Presidente del Consiglio. Sotto traccia però si legge qualcos'altro, e lo racconta bene Lina Palmerini a pagina 10 del Sole 24 Ore. Il pezzo non a caso inizia così: un punto segnato fuori casa non si traduce automaticamente in un successo in casa. Così accade per Conte, ieri accolto in Parlamento dagli applausi della sua maggioranza, che però nascondono tanti nervosismi per come si sta rafforzando la sua premiership. Sono due i punti. Innanzitutto il fatto che si presenti ormai come il personaggio di transizione che può portare il Movimento 5 Stelle, dice Lina Palmerini, lontano dal Vaffadei e vicino al centro-sinistra. E dall'altra parte occupando uno spazio di centro che disturba anche Italia Viva e Matteo Renzi. Insomma, dice Lina Palmerini, per il Presidente del Consiglio il tempo per gustare la sua vittoria a Bruxelles si è già consumato, e da ieri ha ricominciato a destreggiarsi tra le trappole politiche e quelle tecnico-amministrative per scrivere un piano che deve essere mandato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Per questo ieri, a chi gli chiedeva se stesse già pensando a una task force, lui confermava di sì. Però non potrà assomigliare alla commissione Colao, perché non basterà presentare il recovery plan, ma servirà a seguire l'andamento e la realizzazione degli investimenti da postazioni che sono dentro le amministrazioni pubbliche, e quindi ci vorrà un corpo forte all'interno dei ministeri. Quadro politico che, se volete una piccola aggiunta, ve la pesco, ed è un segnale piccolo quanto volete, però significativo. Lo racconta il quotidiano La Repubblica, che Conte si sta prendendo i suoi spazi politici. L'ipotesi è di dare un appoggio alla candidatura di Michele Emiliano in Puglia, a segnare una presa di campo rilevante anche dal punto di vista politico. Vedremo come andranno queste cose. Poco fa troviamo un po' di tracce oggi in giornata sui quotidiani. Allora, poco spazio, devo dire la verità, sui giornali al nuovo intervento dello Stato che si è palesato ieri con 10 milioni di euro per salvare il gruppo della moda maschile Corneliani. Molto spazio in genere al tema dello Stato in economia e alla, se volete, anche alla questione autostrade, perché se da un lato abbiamo l'intervista realizzata con la stampa di Maurizio Landini, il leader della CGIL, che dunque auspica a questo punto una presenza più forte dello Stato nelle aziende che si ritengono strategiche, dall'altra parte invece abbiamo sul Sole 24 Ore a pagina 21 l'intervento, l'editoriale, il commento di Stefano Manzocchi, che è il direttore del Centro Studi di Confindustria ed è docente all'Università Luis, il quale cerca di trovare un equilibrio tra i due elementi, ossia la presenza dello Stato in economia invece invece la necessità appunto di un'economia più libera. L'estensione del perimetro dello Stato nell'economia in tempo di crisi o di emergenza non è certo una novità per il capitalismo e precede le riflessioni e le intuizioni geniali di John Maynard Keynes negli anni tra le due guerre mondiali. Gli esempi abbondano, alcuni virtuosi e altri assai meno. Più complesso e accidentato in diversi casi, questo mi pare il punto, il percorso di rientro della presenza pubblica nell'economia verso dimensioni compatibili con gli equilibri finanziari e le preferenze sociali, ovvero con un livello di debito pubblico e di tassazione sostenibili. Quindi il tema è ancora aperto, se volete, ancora più aperto se andiamo a leggere quello che ci racconta Giovanni Pons su Repubblica, pagina 23, con il fatto che iniziano ad arrivare delle resistenze nei confronti, delle resistenze finanziarie e solide nei confronti dell'operazione che porterà la Cassa Depositi e Prestiti in autostrade. Arrivano dagli investitori istituzionali, ossia da quei grandi fondi che avevano quote di autostrade per l'Italia. Autostrade e i fondi esteri, è questo il titolo, contro il governo italiano, non investiremo più da voi. Quindi un fronte di preoccupazione che potrebbe aprirsi dopo l'operazione autostrade. Probabilmente anche un modo, e sicuramente anche un modo per trattare sul prezzo, per così dire. Però l'elemento c'è. Qual è la storia che ci racconta Giovanni Pons? È quella di Christopher Hon, uno dei più noti e influenti gestori anglosassoni, che attraverso il fondo inglese TCI gestisce circa 35 miliardi di dollari di investimenti. Una parte di questi soldi li ha investiti 3 anni fa in Atlantia, raggiungendo una quota del 6%, e ora non ci sta a vedere i Benetton messi all'angolo e con la pistola puntata alla testa costretti ad accettare di uscire da Aspi, soprattutto senza un prezzo fair, cioè giusto, che soddisfi tutti gli azionisti. È un punto importante da tenere presente. Mettiamolo da parte perché sarà sicuramente anche questo tema di dibattito nei prossimi giorni, vi ricorderete, ne abbiamo parlato lungamente. Molto rapidamente abbiamo 3 cose che vi voglio segnalare prima di andare al traffico. Il Corriere della Sera, pagina 10, ci racconta in questa pagina interessante curata da Sara Bettoni e Silvia Turini il fatto che in Lombardia ci sono da 2 mesi isolate 2.000 persone debolmente positive. Quindi c'è questo tampone che li indica come debolmente positivi. Non si sa quanto siano contagiose, quindi sono 2 mesi sostanzialmente che sono in isolamento, in una specie di limbo. Ci racconta La Verità che ci sono migliaia di bambini con le nuove regole di distanziamento che sono in bilico per gli asili, con la riduzione del 10% dei posti. A Roma mancano a Milano ci sono in bilico 3.000 iscrizioni, a Roma intanto mancano 2.000 educatori, a Napoli si dà il via alle iscrizioni salvo sorprese, e le cooperative sono nel caos in Emilia Romagna. Il pezzo lo firma Patrizia Floder Reiter. E infine, a proposito di scuola, il quotidiano che dà più spazio ci fa addirittura l'apertura sulla vicenda del bando per i banchi monopoli posto, è Il Giornale, che poi a pagina 8 entra nel dettaglio su questa vicenda. Ci vogliono 5 anni per produrre 3,7 milioni di banchi, quelli previsti dal bando voluto dal commissario Arcuri, questo almeno secondo le aziende italiane, e semmai ci si dovrà rivolgere a un fornitore del sud-est asiatico, però adeguatezza dal punto di vista normativo è in dubbio, lo racconta Antonella Aldrighetti a pagina 8 del Giornale. Traffico. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite 2 notti su 3 in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I 1000 volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le 2 ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Mattino. Buongiorno al nostro direttore, direttore anche del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buon giovedì, buongiorno. Buongiorno a tutti, eccomi qua. L'ultimo giovedì di questa stagione. Allora Fabio, l'apertura del Sole 24 Ore oggi è sulle piccole imprese. Sole 24 Ore che racconta che un terzo addirittura è a rischio post-Covid. Il rapporto regionale PMI Confindustria Cerved che ci dà un segnale su quale deve essere uno dei tanti fronti di intervento. Era facilmente prevedibile, all'emergenza sanitaria è subentrata l'emergenza economica e adesso una parte davvero significativa delle imprese italiane si lecca le ferite e corre dei rischi davvero gravi sul loro risanamento, sulla loro capacità di riprendersi. Si gioca una partita fondamentale per l'intero paese. Il rischio c'è, è un rischio grande, lo documenta la ricerca con cui apriamo oggi il giornale. E la partita è aperta, ci sono tutte le condizioni affinché il paese, l'economia del paese possa riprendersi. Certo, bisogna che si metta fine a quei lacci e quei laccioli che soffocano il sistema delle imprese. Non a caso oggi partiamo con una nuova rubrica sul giornale, l'abbiamo chiamata Imprese sotto tiro, e nella prima puntata spieghiamo come certi provvedimenti stanno creando dei problemi davvero seri al mondo dell'industria nautica, che è uno dei fiori all'occhiello di questo paese. Sì, della nostra industria. Il pezzo lo firma Raul De Forcade, racconta di una nautica vessata da IVA su noleggi e leasing e da una stangata sugli ormeggi. Tutte cose da tener presente nel momento nel quale, Fabio, bisognerà elaborare i piani da presentare entro la metà di ottobre per ottenere i fondi europei che arriveranno con il Recovery Fund e con il Fondo per la Ripresa post-Covid. E qua si appunta l'attenzione un po' di tutti, con qualche rischio di assalto alla diligenza, se così vogliamo chiamarlo. È un errore grave. Dobbiamo capire che non arriverà Babbo Natale. L'Unione Europea ha battuto un colpo davvero importante, fondi disponibili ci sono, sono risorse significative, ma ripeto, sarebbe una illusione e un errore grave pensare che arriverà Babbo Natale. Occorrono dei progetti seri, occorrono delle riforme che non stiano sulla carta, ma che vengano davvero realizzate, perché sennò il rischio è che alla fine non arrivi una lira, un euro per la verità, e che facciamo le ennesime brutte figure. Al nastro di partenza non ci presentiamo nelle condizioni migliori, diciamo che questo paese non ha nel DNA saper fare delle riforme che lasciano il segno, occorre andare in quella direzione. L'occasione è formidabile, bisogna semplicemente rifare quello che è stato fatto sotto forme diverse in passato. Mezzo secolo fa, faccio soltanto un esempio, è partito un grande progetto di creazione dell'infrastruttura delle autostrade, che sono una rete autostradale forse la migliore d'Europa. Bene, bisogna avere la capacità di pensare e soprattutto realizzare progetti analoghi. Sì. Su questo punto si giocherà la partita decisiva. Oh, tra l'altro, se gli ascoltatori sono curiosi, oggi Riccardo Sorrentino, proprio sul Sole 24 Ore, a pagina 9, mette a confronto il piano Marshall, che è un po' il riferimento di tutti quando parliamo del Recovery Fund europeo, con il Recovery Fund, e scopre che in termini di incidenza sul prodotto interno lordo, ebbene, il Recovery Fund può valere più, anzi vale più del piano Marshall in termini economici, in termini di dimensioni. Ti vorrei portare su un'ultima cosa, è questo dato sulle rinnovabili e l'elettricità. Ebbene, in Europa abbiamo registrato il sorpasso, cioè le rinnovabili producono la maggior parte dell'energia elettrica. Sì, e in questo campo possiamo dire di avere dei fiori all'occhiello, perché nelle energie rinnovabili, nel verde, nel green, nel recupero dei materiali, noi siamo al primo posto. Abbiamo una grande azienda che è l'Enel, che fa da capo, è un'azienda leader sui mercati internazionali delle rinnovabili, ma abbiamo anche un sistema che funziona, siamo all'avanguardia d'Europa e siamo sempre pronti a criticarci. Bene, per una volta il sorpasso delle energie rinnovabili su quelle tradizionali è stato certificato in Europa e noi siamo ai primi posti, e quindi questo è di buon auspicio per quello che sapremo realizzare. Occorrono progetti importanti, ce n'è uno sì. che potrebbe rilanciare l'edilizia, è quello dell'eco bonus, del super bonus, per cui si possono fare lavori nelle case al 110% di crediti sì. d'imposta, cioè vengono via gratis. Oggi pubblichiamo una guida sul Sole 24 Ore con gli esperti che rispondono a tutte le domande che più facilmente vengono in mente. Su questa partita, sì. sul risanamento delle abitazioni in senso ecologico, si giocherà una parte delle chance per sì. la ripresa e per lo sviluppo economico del paese. Grazie anche per questa settimana a Fabio Tamburini, al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Core. Caro Fabio, ci sentiamo con la prossima stagione. Buon riposo. Grazie, grazie. Simone. Grazie Fabio, ciao. GR24, ci risentiamo tra un attimo con Maria Latella, i nostri ospiti. Avremo il ministro Speranza, tra le altre cose.